Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo visto come le vetture a guida automatica, ovvero le auto che si guidano da sole, che ormai tutte le principali case automobilistiche puntano a mettere in commercio a partire dal 2020, andranno come prima cosa a rintuzzare le flotte dei car sharing e degli operatori della logistica, che più di tutti ne potranno godere i benefici in termini di flessibilità della flotta e anche di riduzione degli incidenti. Stasera allora cercheremo di capire quali ostacoli, fatto salvo l'aspetto tecnologico che è quasi ormai definitivamente risolto, potrebbero frapporsi tra noi, tra il presente e questo scenario futuribile. Ne parliamo sempre con Fabrizio Ruggero, che è a capo del Centro Studi Europe Car dedicato alla ricerca sulla mobilità del futuro, che è tornato a trovarci. Buonasera Ruggero. Buonasera a lei. Allora, intanto veniamo ai temi che sono un po' dibattuti. Ce n'è uno in particolare, che è quello della responsabilità. Ammettiamo che uno di questi veicoli a guida autonoma abbia un incidente o commetta una semplice infrazione. Ecco, di chi è la responsabilità a questo punto? Del guidatore che non guida? Del costruttore dell'automobile? Di chi, magari come voi, gestisce il servizio? Ma allora, da questo punto di vista, la normativa europea e italiana ovviamente di conseguenza semplifica molto la risposta, nel senso che oggi tutta la tematica assicurativa è già in Europa gestita in capo alla vettura, quindi alla specifica targa, e vale lo stesso dal punto di vista della responsabilità in solido per le multe. Si tratterà di rafforzare questo meccanismo e quindi garantire che tutte le responsabilità rimangono in capo al proprietario della vettura, chiunque esso sia. Quindi proprietario della vettura. Ci sono differenze da questo punto di vista tra la legislazione europea e quella americana, dove si sta lavorando molto sulla guida autonoma? Assolutamente sì. Negli Stati Uniti in realtà la responsabilità civile, quindi l'assicurazione principale che riguarda chi guida, è in capo al driver, quindi è sostanzialmente legata alla patente. Oggi la normativa americana non prevede che ci sia un'assicurazione specifica della vettura, cosa che invece è garantita in Europa. Certo. Da questo punto di vista dovrebbe essere più semplice l'accettazione di questo tipo di nuova tecnologia. Senta, ecco, in generale dal punto di vista della legislazione, come siamo messi a livello europeo rispetto alla legislazione americana? Ma l'unica legislazione che in questo momento a livello europeo ha aperto in una maniera un po' più significativa è quella UK. Quindi l'Inghilterra ha già delle sperimentazioni avviate e sono state già definite alcune nuove linee guida. In Europa e nello specifico in Italia la legislazione è ancora abbastanza carente, e quello che ci preoccupa non è tanto la legislazione carente a termine, perché c'è ancora tempo per arrivarci, quanto una legislazione che favorisca la possibilità di testare in strada queste vetture e le soluzioni relative. Perché vi preoccupa? Nel senso che si rischia di perdere un'occasione, questo è il tema? Assolutamente sì, si rischia in qualche modo di non poter testare, di non poter capire realmente qual è il bisogno del cliente, di non poter fare sperimentazione, di non capire anche come modificare l'infrastruttura al contorno. Ecco, adesso ci arriviamo. Diciamo che in generale questa è una partita attorno alla quale ovviamente nasceranno milioni di servizi, milioni di imprese, però nasceranno in questa fase, probabilmente nei prossimi anni, nella fase SID, se così vogliamo dire, di questo nuovo scenario di mobilità. E quindi se si è lontani da dove avvengono le sperimentazioni, dove si può provare e sperimentare, non si sviluppa niente, questo è il problema. Sicuramente se il legislatore dovesse decidere di normare e di semplificare la possibilità di sperimentazione, ci sarà un ritorno secondo noi molto veloce. Senta, parlando di infrastruttura, serve un'infrastruttura particolare per favorire la circolazione di questi mezzi? Per tutto ciò che sarà la guida in centro città, la grande aspettativa è che le vetture saranno prioritariamente a zero emissioni o a basso impatto ambientale. Quindi sicuramente quello di cui si avrà bisogno è la possibilità comunque di avere centri di ricarica dove i soggetti potranno garantire che i mezzi siano sempre... Però questo è un tema di viabilità elettrica, non è legato al fatto che l'auto si guidi o meno da sola. Ecco, l'auto che si guida da sola, Google Car, se perde la connessione si ferma, per esempio. No, assolutamente corretto, questo è l'altro elemento. Ci sarà la necessità di garantire una rete, no, oggi siamo a 4G, una rete stabile e presente ovunque. È vero anche che in qualunque nella gran parte degli studi si stanno dotando queste auto di una capacità di dialogare col mondo esterno anche non in presenza per certi periodi di una rete 4G, quindi in qualche modo possibilità di muoversi ad esempio anche all'interno di un garage. In realtà grandissimi limiti infrastrutturali noi non li vediamo, si tratta di accelerare un processo che è già partito. Va bene, grazie Fabrizio Ruggero. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.